Cioè, non basta Milan Alessandro, non basta il Milan, quello là, i rossoneri, no, altri 100 Milan, uno nessuno, 100 Milan, ma troppo Milan. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Allora siamo qui, cari ascoltatori, a concludere questa settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Venerdì, e ci siamo con voi. 800 24 0024, chiamateci oppure scriveteci al 349 238 6666. Squadra al completo, l'Alpino in regia, c'è Laura Faggina al suo fianco, che ringrazio, c'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, siamo qui, c'è Mario Calabresi, signori, è venerdì, eccolo qua Mario. Buongiorno. Ciao, come va? Buongiorno. Tutto bene? Si sono bene, già in bene, clima grazie. Calcistico. Com'è andata la Coppa Italia? Vabbè, dai, non ricordo. Non ricordo. Non ricordi. No, va bene, è un periodo dai. Di amnesie. Allora, siamo tutti pronti. Scrivete le mail a 100milan@radio24.it. Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Allora, caro Mario, ci siamo, devo dire agli ascoltatori, ci siamo sentiti poco prima della trasmissione, ho detto ti voglio fare delle grandi provocazioni oggi, ti voglio provocare, voglio riprendere da dove ci eravamo lasciati. Ti ricordi che si discuteva di la statua di Montanelli, le statue di Cristoforo Colombo? Ti voglio sottoporre l'iniziativa che c'è su Facebook di tante donne che pubblicano la propria foto di quando erano a 12 anni, come ero a 12 anni. Il riferimento è alla vicenda Montanelli, che ormai lo sanno anche i muri, comprò una bambina in Abissinia, 12 anni. Oggi Michela Marzano, scrittrice intellettuale, sulla Stampa firma un pezzo molto duro a dire è il tempo del rispetto delle donne, del loro corpo, ed è bene dirlo subito, lo stupro è sempre condannabile, chi se ne frega il contesto. E senti come chiude il pezzo: ci sono gesti intollerabili, azioni che non possono essere giustificate, c'è il corpo delle donne, quel corpo che c'è e c'è e c'è e non trova riparo, come scriveva Wisława Szymborska, e questo è qualcosa che i maschi prima o poi dovranno finire con l'accettare. Ecco, ti provoco, siamo maschi, Mario, forse non riusciamo a capire a fondo il problema, non o lo sottovalutiamo. No, guarda, no. Non, che le cose vadano chiamate col loro nome mi è chiarissimo, e non credo che si possa fare un discorso in cui i maschi, tutti gli uomini non rispettano le donne, non, assolutamente non, questo lo trovo sbagliato, così come non trovo che ci sia nessuna giustificazione a quello che successe nel 1936 in Etiopia. Non, è evidente che la storia di Montanelli, quando la leggiamo, è una storia che ci fa accapponare la pelle. E quindi questa qua è una cosa che mi è chiarissima. Io fatico a capire perché oggi, 84 anni dopo, quando la Marzano scrive Caro Indro, eccetera, eccetera, Indro Montanelli non c'è più da un pezzo. E 84 anni dopo ci occupiamo di quella storia, che non è una storia nuova, perché non è che si è scoperto nella biografia di Montanelli un capitolo oscuro che non conoscevamo. E quindi uno dice, no, beh, questo ci fa rivedere tutto. Era un capitolo notissimo, di cui lui parlava, ne ha scritto nei libri, come dire, era un capitolo che oggi noi rileggiamo, ed è giusto che diciamo atroce, ok? Sì. Ma questo oggi, che cosa, cioè qual è il fine di questo dibattito? Allora, credo che la differenza tra il dibattito che c'è negli Stati Uniti e quello che c'è da noi è che il dibattito americano sta trattando di temi che sono presenti sulla pelle in questo momento. Allora, io da direttore di giornale mi sono sempre battuto perché cambiasse il modo in cui veniva trattata la violenza sulle donne. Il giornalismo italiano è stato arretrato per tantissimo tempo e lo è ancora spesso oggi, perché racconta, fa quelle cose terribili per cui c'è un femminicidio e c'è la frase di quello che è stato dell'assassino che dice però lei mi provocava continuamente, quindi una doppia violenza su chi è stata violentata o ammazzata. Però tu dici quella statua non è la statua. Conosciamo le domande statua... che vengono, sì, le domande è, che vengono fatte statua... nei processi. Allora, secondo me bisogna fare una battaglia nel presente. Questa campagna su Montanelli, se ha una finalità a dirci oggi dobbiamo imparare a rispettare, ma siccome anche l'uomo di oggi più, diciamo così, arretrato, meno sensibile, più ignorante, pensa a Montanelli, a una roba del 36, non si sente coinvolto per niente. Cioè, non ne capisco la finalità. Sì. Detto questo, a me è chiarissimo, figurati, io ho due figlie di 13 anni, cioè non ho chiaro che cosa vuol dire avere 12 anni. Cioè, ma proprio spettacolarmente chiaro, ma ce l'ho sempre avuto, anche prima che mie figlie avessero 12 anni. Non riesco a capire questa storia qui. Ti sottopongo questa riflessione che ha fatto una persona che tu conosci molto bene, l'ha intervistato nella tua newsletter, lo storico Alessandro Barbero, che è un grande divulgatore oltre che uno storico, e proprio oggi intervistato dal Fatto, lui parla della statua di Colombo, per la verità, e dice: a me queste violenze sulle statue sembrano una forma di razzismo, pensa, ribalta la questione, perché dice sotto le intenzioni di chi dice oggi abbiamo certi valori e Churchill e Colombo non li avevano, si cela la voglia della civiltà occidentale di dire noi siamo migliori degli altri, di dire chi sono questi stronzi del passato che si permettevano di avere valori diversi dai nostri, cancelliamoli. Cioè lui ribalta la questione. Però c'è un dato, cioè noi non possiamo non vedere le differenze tra le cose. Ma Churchill è stato il baluardo contro il nazismo. Cioè io la sua biografia o la vedo nella completezza. Io dico, non mi piaceva, determinati modi di comportarsi di Churchill non mi piacevano. Sì. Ah beh, ma io non posso perdere di vista che Churchill è senza di lui probabilmente Hitler avrebbe dilagato. Ma infatti Barbero dice quella statua di Churchill non è una statua che inneggia il razzismo, se Churchill è mai stato, ha avuto mai delle idee, come dire, di razziali, di superiorità, cioè è una statua che inneggia quello che hai detto tu, al ruolo che ha avuto nella storia. Comunque dice Barbero, se pieghiamo le statue alla logica di oggi è finita. Comunque questo è il dibattito, cari ascoltatori, diteci la vostra, forse siamo maschi e non capiamo, sì effettivamente è forte questa dichiarazione. Però, caro Mario Calabresi, ti voglio presentare un uomo intellettuale, scrittore, tifoso. Bisognerebbe dire, mentre chiedo all'Alpino di far partire in regia l'audio dei festeggiamenti ormai celebri che sono stati a Napoli dopo la vittoria di Coppa Italia, lo so che ti fanno dolore, ti provocano male fisico, caro Mario Calabresi, ma no, tant'è. No, senti lo Juventino che perde con fierezza. Devo dire, intellettuale, scrittore, giornalista e anche forse sciagurato. Sciagurato, uno degli sciagurati, Maurizio De Giovanni, buongiorno e benvenuto. Veramente sciagurato, direi. No, non sono, mi rammarico, purtroppo non sono tra quelli scesi in piazza. E quindi il mio rammarico per non essere sceso in piazza mi porta, non offenditi per essere stato chiamato intellettuale giornalista, cosa che insulti che non merito, francamente. No, vabbè, scrittore, non è vero. Sì, ma grande scrittore. Allora io dico, due aggettivi: grande scrittore, Maurizio De Giovanni. No, c'è questa polemica, c'è Mario Calabresi che l'ascolta, tifoso juventino, ma all'acqua di rose. Saluto con deferente affetto. Allora, c'è questa vicenda napoletana, possiamo dire. Sentiamo De Magistris, che ieri era da Roberta Giordano, da noi, Radio 24, e poi è intervenuto anche in TV. Sentite cosa ha detto, sentite chi ha vinto ieri. Ha vinto il contagio della felicità ieri. Speriamo che non porti altri contagi. Non credo. Il contagio della felicità. Ecco, De Giovanni, ha vinto il contagio della felicità? Abbiamo un sintomo immaginifico, come si sa. Quindi sì. il suo commento è... Io direi una cosa molto più banale e terra. Io trovo di un'ipocrisia insopportabile, no? Il fatto di assegnare un trofeo dello sport più amato in questo paese, che è l'unico evento che muove le masse allo Stato, masse inerti a ogni forma di ideologia in questo decennio, che si muovono e si aggregano soltanto per il calcio. Pensare di assegnare un trofeo di questo sport e peraltro assegnarlo in una partita che sovverte il pronostico, e immaginare che la cosa venga accolta con un sorriso e un sospiro, con aplomb britannico o con francese nonchalance da parte di una tifoseria come questa, è veramente ipocrita. Come trovo ipocrita vedere i giocatori in panchina mascherati e distanziati, salvo poi entrare in campo di un minuto e sbracciarsi e costruire barriere contro le punizioni altrui, oppure strattonarsi per un calcio d'angolo. Sì, lei oggi sul Corriere della Sera scrive di più, dice: leggo, vedo anche manifestazioni politiche, un po' bipartisan, si può dire, di politici tutti, no, ma per carità, come dire, io non volevo, incollati l'uno all'altro. Non volevo prendere posizione politica, ovviamente. Io faccio un discorso semplice. Ci sono delle ragioni. Le ragioni della rabbia, le manifestazioni, per esempio, che in tutto il mondo stanno avvenendo a seguito dell'omicidio di Floyd, no? Negli Stati Uniti. E quindi ci sono manifestazioni con aggregazioni anche pericolose, voglio dire, al di là del contagio, proprio pericolose nelle reazioni e nella repressione. Ci sono manifestazioni politiche, con manifestazioni di piazza, ma anche manifestazioni sindacali, momenti di protesta. Io non credo che la gioia irrefrenabile ed irrefrenata in relazione a un evento sportivo, che poi tra l'altro coinvolge, essendo notturna, essendo in piena notte, poche migliaia di persone e in movimento peraltro, no? Statiche. Io non credo proprio che sia diverso. Questo forse è il punto, non lo so. Della reazione che dice sciagurate, sì. Non lo so, Mario Calabresi, tu che ne pensi? Effettivamente forse si è voluto anche un po' punire il fatto che sia una manifestazione per il calcio, cioè, come dire, è un qualcosa che molti dicono, ah, insomma, ma se lo potevano risparmiare. Che differenza c'è tra una manifestazione di gioia calcistica per una vittoria e una manifestazione politica in piazza? Mario, che ne pensi? Guarda, da juventino mi trovo d'accordo, sì, con vabbè. Giovanni, ma anche, cioè, ti dirò di più, ho trovato infinitamente più grave che in Piazza del Duomo a Milano, nella Lombardia in cui ancora ci si contagia, ci fossero quelli lì, gilet arancioni, lì Pappalardo, sì, in quell'assembramento, quanto, 3 settimane fa, 2 settimane fa, in un momento ancora delicato. Il punto è questo qua, o siamo tutti coerenti, e prima c'erano quelli che facevano, che portavano i cani, e poi c'erano quelli che facevano, che andavano a fare la corsetta, e poi, cioè, sempre una polemica con qualcuno. Allora, andiamo in giro nelle nostre città e vediamo che in aumento esponenziale sono in aumento le persone senza mascherina. Vediamo che iniziano a esserci assembramenti, panchine, tavolini, ristoranti in cui la gente si compatta, sta vicina. Allora, non abbiamo bisogno di dire, ah, ma lì ci sono, quelli sono i colpevoli. C'è stato un totale allentamento. Noi, nella speranza, forse nell'illusione, chi lo sa, che comunque sia è passata, c'è un liberi tutti. Poi ognuno, secondo me, si protegge e cerca di avere un senso di responsabilità personale. Io te lo ripeto sempre, io continuo non a stare in quarantena, naturalmente, mi muovo, eccetera, eccetera, ma la mascherina, le mani, la distanza, andare in un posto affollato, io tutte queste cose qua continuo a starci attento. Finché non mi diranno, nero su bianco, non delle cose, sembra che, nero su bianco, i contagi stanno a zero ed è finito, e poi siccome continua a stupirmi che tu vedi che per un 36 contagiati Pechino chiude le scuole, un mercato e 11 quartieri, a Milano con 38 si riaprono i cinema e i musei. Qui c'è, quindi, anche da dire, oggi rilancio l'intervista che il professor Remuzzi fa sul Corriere della Sera oggi, ma è venuto varie volte qui a dire, titolo: i nuovi positivi non sono contagiosi, stop alla paura. paura. Per carità, leggetela, io l'ho messa su Facebook, mi hanno già massacrato. Però Maurizio Di Giovanni, se tanto mi dà tanto, tra 15 giorni, questo è il periodo di incubazione, avremo un'esplosione di casi a Napoli. Sì. Oppure no, la oppure no. Totale. No, no, speriamo assolutamente di no. Questa è una regione che per ragioni proprio urbanistiche e di densità della popolazione, soprattutto nella fascia litorale, raggiunge vertici direi giapponesi, coreani, la densità della popolazione può entro certi limiti rispettare il distanziamento sociale. Se scende una persona per nucleo familiare a fare la spesa nella Piglia Secca, una persona per nucleo familiare a fare la spesa, c'è una folla bestiale, perché in un vicolo di 300 metri di lunghezza e 6 metri di larghezza abitano migliaia di nuclei familiari. Quindi pensare che ci sia una problematica relativa a un evento del genere veramente significa essere fuori dal senso comune. Ma ripeto, fino ho letto l'intervista del professor De Muzzi, mi auguro abbia ragione, come dici. Io non voglio manco entrare nel merito del virus, non ho competenze, nemmeno ne voglio avere, sinceramente. Sì. Sono anche un po', devo dire, tra l'avvilito e l'annoiato dal proliferare, sì, dall'argomento. Di teorie virologiche, epidemiologiche, dovunque, su tutti i media. Io faccio un discorso diverso. Noi non dobbiamo essere ipocriti, non possiamo cedere a certe cose e poi pretendere che la gente, pur cedendo a certe cose, a me sembra molto che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Se a livello istituzionale noi diciamo che dobbiamo ricominciare a vivere, non a sopravvivere, ma a vivere. Sì, fermo restando, come diceva benissimo Calabresi, cioè la necessità del rispetto di cautele da parte di ognuno a livello individuale, non è possibile pensare che la vita non ricomincia. Non è possibile pensare che la vita non ricomincia. Allora, o non si fa partire proprio il calcio, il teatro, le feste di piazza, e quello di cui questo paese vive. Sì. Nel periodo estivo, oppure ci tira secca, oppure, e ci sarà una progressivo cedimento. Oppure c'è una terza via, date questa Coppa Italia alla Juve, che loro festeggiano, cioè tu saresti salito su un motorino, per scorrazzare per la via di Torino, non credo. Diamo la vittoria alla Juve sempre, tanto quelli festeggiano con uno spumantino. Noi siamo sciagurati, a Napoli sciagurati. Siamo in termini bimestrali per quanto riguarda. Sì, vabbè. Perché ci siano i contagi tra 2 settimane, dovrebbero esserci stati dei positivi contagiosi tra quelli in che piazza, erano in piazza, certo. Ma visti i numeri della campagna ultimamente, sarebbe da escludere. Comunque, Maurizio De Giovanni, la ringraziamo, grazie ovviamente, grande scrittore, mi prendo sempre la responsabilità di dirlo io. Allora, adesso voglio farvi sentire un audio di un film di diversi anni fa, storico, che forse qualcuno riconoscerà, e cioè Il muro di gomma. Gli ha buttato giù il 19 e voleva colpire un altro aereo. Chi c'era su quell'aereo? C'era Gheddafi. Quel missile era per Gheddafi. La notte dell'incidente nessun aereo o mezzo navale italiano si trovava nella zona. Il muro di gomma. 40 anni, ieri sentendo al telefono Mario Calabresi mi ha un po' risvegliato su questa cosa. Sono passati quasi 40 anni dal sabato prossimo saranno 40 anni. E tu dedichi proprio tutta la tua newsletter a questo tema su Mario Calabresi. Sì. Perché? Per due cose, ci sono due cose. Una, cioè 40 anni fa un aereo è stato abbattuto, un aereo che andava da Bologna a Palermo, che portava gente che andava in vacanza, è stato abbattuto e ci sono state 81 vittime, di cui 13 bambini, 2 erano neonati, 81 morti. E già a me dire le 81 vittime non mi piace mai, perché vittime è un numero, è un simbolo, è definita lì, ma quelle erano 81 vite. Allora io ho fatto un lavoro per raccontare due di queste vite, di una coppia che non avrebbe dovuto prendere quell'aereo. Era in lista d'attesa e fino all'ultimo ha pensato di non prenderlo. Poi non si sono presentate due persone, sarebbe chissà chi erano quei due che non sono saliti perché erano in ritardo, e quindi loro felici sono riusciti a trovare posto su quell'aereo e quindi ad andare loro alla morte al posto di altri due. Ma c'è una cosa, ecco, quando noi parliamo, scusami, ritorno, noi parliamo di Montanelli, la statua, eccetera, eccetera, ci sono delle cose su cui varrebbe la pena di rifare invece, scusami, un vero casino, cioè di dire, qua, noi sappiamo che quella notte, dopo tanto tempo, sappiamo che quella notte c'erano una serie di duelli di aerei militari sul Mediterraneo. E sì, un aereo si mise nascosto nella scia del DC-9 per non farsi intercettare. Un altro aereo tra Ponza e Ustica ha o tirato un missile per colpire l'aereo che si nascondeva, quindi un aereo nemico, ma non sappiamo chi fosse, e ha colpito ha colpito l'aereo per errore, oppure ha fatto una manovra passandogli, perché si vede che c'è una scia di un aereo che fa una manovra spericolata, e passa vicinissimo, a grandissima velocità, vicinissimo all'aereo civile, provocando così un'esplosione che fa precipitare il DC-9 dell'Itavia. In entrambi i casi, noi oggi non sappiamo, 40 anni dopo, quegli aerei quali che erano sui cieli italiani, cosa fossero. Si presume che fossero americani, che ci fossero dei francesi e ci potesse essere un jet libico. Ok? Questa è una cosa che si potrebbe sapere. Con un impegno politico di opinione pubblica si potrebbe sapere. Secondo me, che noi ci facciamo andar bene, che 40 anni dopo non si sappia perché è stato abbattuto un aereo civile che trasportava dei civili, delle persone che in un giorno normale del 1980 venivano ammazzate. È una cosa incredibile, sì. E ricordiamo che ci sono stati non solo film e libri, commissione d'inchiesta, inchieste, commissioni parlamentari. C'è stata una lunghissima inchiesta del giudice Priore che ha ricostruito lo scenario, ma poi non è potuto fare nessun processo perché non è in grado di rinviare a giudizio nessuno. Chiaro. Perché? Perché i militari italiani non hanno mai collaborato, perché l'aeronautica non hanno detto chi erano quegli aerei, la NATO non l'ha fatto, i francesi non l'hanno fatto, gli americani non l'hanno fatto. Allora questa è uno dei temi, secondo me, che meriterebbe davvero una mobilitazione e anche un po' di quell'indignazione che usiamo in un sacco di cose. Allora, e se volete, su mariocalabresi.it o .com, la sua newsletter gratuita, ricordiamo delle storie del venerdì, ci sono tante storie che appunto racconto, monografica, insomma, l'hai fatta questa settimana, monografica dedicata su Ustica. Va bene, Mario, noi ci dobbiamo fermare, ti dobbiamo salutare e oltre che ringraziare. Insomma, la Coppa Italia è andata a Napoli, a pazienza, dai, sarà per il campionato o la Champions? Va benissimo. Dai. Tu sei stato ben attento a non chiamarmi dopo la partita Milan-Juve, lì non lo hai fatto. Sì. E mi hai aspettato, il Napoli per telefonarmi. Quali partite? Poi ecco, è finita 0-0, un pareggio, mi ha strappato un punto a Torino, va bene così, dai. Un abbraccio. Buona giornata, buon fine settimana a tutti. Alla prossima, ciao. Tutti. Andiamo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Dottor Milan, pensi un po' se dopo tutto questo contagio di gioia dei napoletani non accadesse nulla, non ci fosse un aumento del contagio del virus. Allora sarebbe difficile da parte degli scienziati dimostrare ancora la pericolosità del virus. Ma sì, andiamo in tre in motorino, andiamo a fare assembramenti e poi mandiamo i vigili a spostare i tavoli di 10 centimetri. Molto bene, viva l'Italia! Ascoltatore ha ragione. La cosa, infatti, le immagini che hanno dato più fastidio da Napoli, questo sì, sono i tre in motorino, quasi tutti senza casco. Soprattutto è incredibile, cioè c'erano dei genitori col casco e dietro il bambino di 8, 10, 12 anni senza casco. Questo sì, questo disprezzo. Non devi dirlo, delle regole. Non devi dirlo, buongiorno, Leonardo, non devi Manera. Dire queste cose. Oh. dire queste cose perché tu poi sembra che sia contro Napoli, contro i napoletani, come contro si quelli che sei vanno contro in Napoli, Motorino. Contro i napoletani, si sa che queste, diciamo, sei contro. Mi vuoi far diventare il nuovo Cruciani, il piccolo Cruciani? No, io non sono contro Napoli, non sono contro Napoli. Ecco, è arrivato fastidioso. Cosa ti fai? Un caffè? Parliamo delle cose serie. Ti fai rumore. Sai che prima stavo parlando con l'insalata? Stavo parlando con l'insalata. E che cosa ti ha detto? Di grazia. Adesso... No, non c'è proprio da ridere, mi rendo conto effettivamente. Che tipo di insalata? Riccia, scandina, allora, scandina. Mi sono accorto di avere rucola, qui in frigorifero. Radicchio. Mi sono accorto di avere in frigorifero un piatto con dentro dell'insalata già condita almeno da 15 giorni, che ormai macera, e lì macerata perché c'è dentro anche olio, aceto, sale, non è più insalata. Stai facendo un esperimento scientifico per la coltura di qualcosa. E mi sono accorto che ci si può affezionare anche all'insalata, perché è qui da 10 giorni, ragazzi. 15, già condita, e allora ho cominciato a dirle insalata mia. Tu vivi qui con me nel mio frigorifero ormai da tanti giorni e mi sono accorto che in fondo ho stabilito un rapporto anche sentimentale con te. Ti guardo e vorrei metterti nell'umido, ma non ce la faccio perché mi accorgo che in fondo, attraverso la visione di te, anche se vivi nel mio frigorifero, però io in fondo ti voglio bene, insalata. Perciò non ti butterò mai e ti terrò sempre con me nel mio frigorifero. Amici ascoltatori, allegria! Vabbè, no ragazzi, allora adesso torniamo seri, perché nel presentare un ospite io ritorno sull'intervista al professor Remuzzi fatta oggi da Marco Imarisio sul Corriere della Sera, mentre non avevo segnalato che Daniela Ranieri ha intervistato il professor Barbero, storico, sulla vicenda Montanelli per Il Fatto. Ma veniamo a Remuzzi. Allora, leggetela, io l'ho pubblicata su Facebook, poi il professor Remuzzi è venuto varie volte anche qui, è un amico anche di Radio 24, per me è uno scienziato di fama internazionale. Io l'ho messa su Facebook questa intervista, sono stato già massacrato. Cosa dice il professor Remuzzi? Tante cose. Intanto dice che i nuovi positivi non sono così contagiosi, perché hanno una contagiosità che è sotto le 100.000 copie di RNA. Andate a leggere, fa una tutta una dotta disquisizione scientifica, e quindi di fatto sono positivi ma non sono contagiosi. E dice il professor Remuzzi, quindi sentire che ci sono, non so, 216 nuovi casi in Lombardia non mi interessa se sono positivi sotto una soglia di positività ridicolmente inferiore a 100.000, non possono contagiare gli altri. E alla luce di questo dice: per carità, richiudere la Lombardia, cioè smettiamola con questo terrore, con questa paura. Lo dice il professor Remuzzi, scienziato, massacrano me che semplicemente dico leggete l'intervista al professor Remuzzi. Tra l'altro è anche per questo che le persone si comportano in un modo piuttosto invece che nell'altro, perché se sono risposte chiare, chi vede il bicchiere mezzo pieno dice vabbè, ormai questa storia è finita, chi lo vede mezzo vuoto ha ancora paura, ma deriva anche da quello che ci viene detto dagli scienziati che pensano in modo molto diverso, quindi è anche legittimo che le persone si comportino ciascuno a modo proprio. Sì, noi abbiamo chiamato, non su questo tema specifico, ma il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi. Buongiorno, dottor Rossi. Buongiorno. Intanto, non lo so, lei medico dove opera, dove eserciti, ma dal punto di vista medico-clinico, perché c'è questo grande dibattito, cioè lei si sentirebbe dire Remuzzi, come mi dicono molti su Facebook, ma Remuzzi sbaglia, gente che magari fa onestamente il lavoro in banca, ragioniere, l'impiegato, cioè dice una follia il professor Remuzzi, non credo. Ma guardi, a me hanno insegnato quando studiavo il metodo scientifico, dice che prima di fare un'affermazione bisogna avere dei dati scientifici comprovati. Ma hanno fatto uno studio? Ho dimenticato che spiega tutto uno studio che ha fatto l'Istituto Mario Negri, sulla quale si basa questo. Io infatti non mi lungi da me l'idea di controbattere il professor Remuzzi, dico solo che se questa cosa ha un supporto scientifico, ben venga, un'opinione molto interessante. e altrimenti se no, forse certo. Meglio di no, ecco. Sì, ma sì, comunque, sì, no, ma è chiaro. Questo forse andrebbe anche completato con un'altra affermazione. In ogni caso invito a utilizzare le protezioni e a stare attenti, c'è sempre, perché anche se dovesse essere poi verificato che la contagiosità è sensibilmente diminuita, siamo tutti molto contenti, però non è che è assente. Su questo non c'è dubbio, ma e su questo il rispetto delle regole è il primo, lo stesso professor Remuzzi, esatto, di farlo. Però esatto. forse è una questione di approcci anche psicologici, cioè sì. No? Di dire se la carica virale se è diventata molto bassa, forse il terrore possiamo anche lasciarcelo un pochino alle spalle, ma convivere con la prudenza necessaria. Però dottor Rossi, noi l'abbiamo chiamata perché lei ha fatto una proposta che magari fa anche discutere, a dire ci vorrebbe una sorta di indennizzo a questo punto per i medici. Perché va bene gli applausi, va bene il grazie, tutti grati, tutti a fare la retorica, però forse adesso ci vuole anche qualcosa di più. Ce lo spiega? Ma diciamo che ha già detto gran parte lei, nel senso che io da bravo, come dire, milanese, lombardo, sono molto concreto. Per carità, le cerimonie, i ringraziamenti ufficiali, eccetera, fanno sempre piacere, è una cosa buona. Però io ritengo che lo Stato dovrebbe dare un segno tangibile di questa cosa, di questa vicinanza. E non parlo solo dei medici, ovviamente sono presente dell'Ordine dei Medici, a me è, come dire, interessano i medici, ma è giusto che questa cosa sia estesa a tutti i sanitari, quindi gli infermieri in primis, ma anche gli altri operatori del mondo sanitario che si sono contagiati, a volte purtroppo sono morti, per il coronavirus. Teniamo presente che l'Italia ha dati sul superiore di sanità, quindi dati ufficiali, sì. Ha avuto un record che credo sia addirittura forse mondiale o uno dei primi, ma forse addirittura siamo tristemente i primi, e cioè ha il record di sanitari contagiati, perché l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che siamo intorno al 12% di sanitari contagiati, che è un dato incredibile, non c'è da nessun'altra parte della terra. Ma lei quindi cosa ha proposto? Cioè, ci vorrebbe, che ne so, un indennizzo, proprio quantificarlo, no? Economicamente. Sì, sì, certo, noi abbiamo proposto, ovviamente si tratta di un indennizzo simbolico, ma comunque concreto, abbiamo proposto di promulgare una legge simile a quella, qualcuno forse se la ricorderà, dello Stato, si chiamava 210 del 1992, era quella che metteva in campo un indennizzo per coloro che avevano contratto HIV o HCV, cioè l'epatite C o l'HIV in causa di trasfusioni. È stata fatta una legge, ecco, noi proponiamo di seguire la falsa riga di questo tipo di legge, proporre un testo nuovo ovviamente, ma dare questo tipo di indennizzo. Si fa riferimento essenzialmente alle tabelle della pensionistica di guerra, perché sono quelle che utilizza lo Stato in questi casi. Intendiamoci. Poi il come, questa è una proposta, no? Sì, sì, il come, sì, è una proposta. Certo che però, dottor Rossi, mi perdoni, allora, non so, tutte le categorie che hanno lavorato sempre e che si hanno rischiato di contagiare, non so, penso a tutti coloro che hanno lavorato nella grande distribuzione, i cassieri, le cassiere, gli autisti di autobus, i mezzi pubblici, i tassisti, tutti coloro che hanno tenuto aperto qualsiasi servizio pubblico, i vigili del fuoco, i poliziotti, i carabinieri. Beh, premesso che il rispetto dovrebbero essere indennizzati tutti, no? Beh, premesso che il rispetto per tutti coloro che hanno contratto una malattia e sono morti o hanno avuto un'invalidità è grande, e comunque non dimentichiamoci che c'è sempre l'INAIL che tutela i contagi in occasione di lavoro, insomma, quindi le tutele da parte dello Stato per coloro che comunque sono dei dipendenti o hanno un lavoro in dipendenza di qualcuno ci sono già. Però questo è una cosa diversa, questo è, siccome spiego, i sanitari perché negli altri paesi non hanno, addirittura ci sono paesi dove i sanitari sono coinvolti dall'infezione in maniera visibile, pochissimi casi, perché i sanitari normalmente sono in tutti i paesi del mondo i primi a essere protetti, in quanto sono quelli direttamente esposti al virus proprio in prima linea, quindi questo è il primo elemento, e B, poi se si contagiano loro diventano dei super diffusori, nel senso che loro sono quelli che portano in giro inconsapevolmente e purtroppo a loro, come dire, senza volerlo, il contagio. Quindi normalmente la prima cosa che fanno tutti gli stati è tutelare i sanitari per queste ragioni. Anche sì, perché poi dopo se non ci sono più loro in prima linea, non c'è chi ti cura, No, ma quindi, chiaro, questo evidentemente qui in Italia, tanto per uscire dalla metafora, qualcosa non ha funzionato se il 12% dei sanitari si sono contagiati. Ecco perché è la ragione di questa legge, capisce? Ma questo l'abbiamo detto anche perché ci sono stati tanti, insomma, mancanze di protezioni, di dispositivi. Comunque, Roberto Calorossi, noi la ringraziamo, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, una proposta di indennizzo per i sanitari, economica, si veda come, è una proposta lanciata e si vedrà. Dobbiamo andare un attimo in ritardo al traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free. Dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, mi spieghi il motivo come mai il caro De Luca non ha ancora tirato fuori il bazooka o il lanciafiamme per castigare i tifosi che hanno manifestato, hanno fatto le loro feste? Spiegami il motivo. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Non è legata però alla frase, alla Coppa Italia, insomma, ai festeggiamenti di Coppa Italia. Va bene. Caro Leonardo, eccomi anche oggi presente. Allora, ormai in tutti i settori si comincia a parlare di futuro, si comincia a prendere in considerazione quali prospettive ci sono per garantire la ripresa economica e non di tutti i segmenti produttivi della società. Ho detto segmenti produttivi, espressione raffinata che dovrebbe comportare subito un aumento di stipendio, sottoscritto, lo ripeto, segmenti produttivi, qualora il direttore del personale fosse in ascolto. Ma parlando di futuro, è gioco forza parlare anche del futuro del coronavirus, però non dal punto di vista tecnico, scientifico, poiché quello è riservato a scienziati, virologi e a tutti quelli che in questi mesi con chiarezza ci hanno confuso le idee, ma da un punto di vista invece molto più semplice. Il coronavirus in futuro, probabilmente anche quando entreremo in contatto con lui, in futuro diventerà un ospite sereno del nostro corpo e se ne starà lì senza creare troppi danni, tranquillo, come un impiegato annoiato che non lavora molto e sta nella sua postazione a fingere di lavorare, come un invitato a una festa che non si dà da fare per farsi notare, come un calciatore a fine carriera che si muove il minimo possibile per non sudare, come un marito che adempie ai doveri coniugali tenendo i calzini, che tanto la moglie ormai è abituata, come la nebbia d'inverno a Amazone o come un bagnino in una piscina all'aperto in ottobre. Il coronavirus starà lì nei nostri corpi un po' annoiato, come tutti noi quando ci abituiamo a una cosa. E a quel punto, se il coronavirus si sarà abituato a noi e noi al coronavirus, probabilmente il nostro corpo non si prenderà più nemmeno la briga di creare anticorpi. Forse conviveremo col coronavirus senza problemi, al massimo un raffreddore, un po' di mal di gola, una raucedine, una perdita momentanea del gusto, come succede quando si mangia la finocchiona. Ma non avremo più problemi, i problemi dell'inizio, e poi arriverà il vaccino. e del coronavirus non si parlerà più, ma resterà nella nostra memoria, perché in fondo il virus è come la vita, è come i rapporti umani, bisogna prendere le misure e poi cercare di stare bene. Ecco, pensate se potessimo avere un vaccino contro le reazioni avverse nei rapporti umani, tenere solo il bello ed eliminare tutti i possibili effetti collaterali dei rapporti umani, sarebbe meraviglioso, ma questo vaccino purtroppo non esiste. Però esiste un cocktail di farmaci, anzi di rimedi, per aiutare i rapporti umani quando c'è qualche difficoltà. Rimedi che sono i comportamenti adeguati, la delicatezza, l'ascolto, l'ironia, la leggerezza, la pazienza, qualche volta perfino un bicchiere di vino, o due, o tre. E alla fine la fiducia, tutte cose che si possono imparare, oppure bere, e che possono rendere la vita felice. Mi accorgo ora che ho detto parole che potrebbero essere condivise anche dal Papa o dal proprietario di una cantina, però ci credo, male che vada, perciò cambierò vita, diventerò prete e cercherò di farmi assumere a Radio Vaticana, che ha dei buoni ascolti, pagano bene e tutto sommato mi troverai da Dio. Eccolo lì, l'ha detta a Radio Vaticana. Ma ti ci vedo a parlare delle tue 45 fidanzate. Ci vedo qualche proprio 45 fidanzate. Sì. Erano 42. Manco una, caro Alessandro Milan. Manco una. Va bene. Allora, no, devo dire che arrivano tanti commenti appunto sull'articolo di Remuzzi che ho pubblicato sulla mia pagina Facebook. Questo di Donata è perfetto, perché dice: beh, già gli italiani fanno fatica a seguire le regole, se togliamo anche quel poco di paura, altro che Cina. Ecco, capisci? Cioè la gente ormai ha certificato il fatto che il popolo è stupido, tranne quando vota, e quindi va terrorizzato, perché così segue come un gregge. Se sbaglia un attimo, gli si dà una piccola bastonata, magari col bastoncino elettrico, così la pecorella rientra nella sua linea e continua così, no? Cioè, Donata scrive: ma se non gli mettiamo un po' di paura, sti italiani poi non rispettano le regole, capisci? Cioè, è quello che diceva anche il ministro Boccia, ti ricordi? Bastone e carota, popolo di pecore. Se vi piace il bastone e la carota, otterrete bastonate e carotate. Va bene, andiamo. Io preferisco di no. Andiamo al giornale radio, dai, seconda ora tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Io che pensavo che Manera fosse un precisino, un pulitino, l'insalata del frigo, ma che schifo proprio. Ci siamo? Soprattutto l'insalata nel frigo da 10 giorni. Già condita. È dentro un contenitore di plastica con sopra della carta stagnola, già condita, ed è lì che vive insieme a me. Mamma mia. Tra l'altro, devo dire anche una cosa, devo fare una rettifica, perché giustamente quando citavo prima le insalate ho detto la mitica insalata scandivia, era ovviamente l'indivia. Come la mia amica Caterina mi ha sottolineato con un messaggio molto piccato, però mi ha detto che esiste. Io ovviamente ho tenuto il punto, ho detto che adesso andrò al mercato e chiederò 3 etti di scandivia. Grazie, mi dia 3 etti di scandivia. Voglio vedere se i miei simpaticissimi. Hai fatto una crasi, insomma. In realtà, hai fatto una crasi. Esatto. Devi giocartela in modo, diciamo, più intellettuale, sì, tra la scarola e l'indivia. Sì, così arrogante, mi dia la scandivia. Voglio vedere se i miei proprietari qui nel mercato comunale di Vico e Quense saranno anche molto contenti per la vittoria del Napoli, credo. Se hanno coraggio di dirmi scusi Milan, non mi chiamano Milan, mi chiamano Milan, come sta Milan? La scandivia, grazie. Però mi ha detto che esiste l'insalata scandinava, quindi forse ho fatto così. Adesso devo smaltire Unione. Questa insalata che mi è rimasta nel frigorifero, inviterò qualcuno a cena. Nell'umido. Sai che una volta Una volta, non ricordo più come mai, mi era rimasta a casa nel frigorifero parecchia insalata russa ormai un po' da diversi giorni. No! Ho fatto una cena. Insalata russa è terribile. Ho invitato a cena alcuni amici e sono stati male quasi tutti. Quando io da Ma tu lo racconti anche così? Ma cosa vuol dire smaltire? Sì. Ma buttala, o mangiala e poi buttala. Cioè, lo so che è brutto sprecare il cibo, ma anche mandare all'ospedale degli amici non è simpatico. Ma male che vada ti viene una leggera gastroenterite, non è mai una cosa grave. Al massimo è un paio di giorni di disturbi intestinali. Perché buttare? Beh non lo so, l'insalata russa con le uova, non lo so, infatti è la maionese. Sì, sì, sì, per alcuni giorni sono stati male. Io comunque ti ricordano ancora con grande russa. Sì, tu hai ottenuto il tuo obiettivo, cioè sarà una merda. Scusa, in effetti, guarda, saranno passati ma tanti anni, ti dico, sarà stato il 96, 97, ma lo ricordano ancora. C'era quell'insalata russa giallina, giallastra, vagamente, ricordano ancora l'episodio. Quindi se qualcuno vuole venire a casa mia a mangiare l'insalata qui che è rimasta da 10 giorni. Sì, certo. È il benvenuto. Un appello. So. Per esempio c'è Alessandro, vedo che chiama da Milano, quindi insomma potrebbe anche Alessandro da Milano ha bisogno di un invito a cena. Stasera si sta leggeri. Si sta leggeri stasera in salatina, eh? Te lo dico subito. Ah, ecco, Alessandro. Ho anche altre cose. Alessandro, ci sono. Prego, ci cosa sono, ci vuol dire? Aspetta. Grande Alessandro Milan, grande, io sono il cuoco di mio, per cui l'insalata me la faccio io. Ah, va bene. Che ci vuol dire? 45 anni di me. Senti Alessandro, io ho un problema serio. Ho perso la casa, abitavo a Cozzo, provincia di Pavia, dopo Mortara. Sì. Adesso io sono residente a Milano e vivo in un camper. In un camper? In un camper e c'ho il cane, io ho anche una pensioncina di 700 euro al mese. Ma che succede? Io ho bisogno di un posto chiuso, uno che c'era ditto, un capannone. Sono disposto a fargli tutti i servizi di manutenzione, di pulizia, di custode e tutto quanto, mantenere pulito e fare anche da custode. Cioè, ha bisogno il nostro Alessandro di un posto, al chiuso perché non è che può parcheggiare il camper. In cambio, Alessandro dà la possibilità di fare il custode, di pulire, potare le piante, piantare le piantine di fiori, piantare l'insalata, cucinare pure per qualche buon amico. Ma come cucini? Come Manera? No. Lui dice che è cuoco, per tanti anni. Ho lavorato a New York, a Boston, a Monaco di Baviera, a Londra, ne ho fatte tante. La cucina per me è famiglia. Che vita che deve essere stata. Ma cos'è vita... successo poi, se posso chiederglielo? Esatto, come mai dopo tutti questi lavori poi si è ritrovato in questa situazione un po' di difficoltà? Sì, perché ho avuto un po' il vizio del gioco, insomma, adesso prendo una pensione di 750 euro al mese. Insomma, una vita che è finita un po' così, insomma, qualche pagina sbagliata. Però io sto bene di salute, finito i giochi. C'ho un amico cane che ce l'ho sempre con me, l'orgucciolo. Come si chiama? Come si Tito, chiama? Tito, è un pastore maremmano abruzzese. Non lo so, guarda, noi Alessandro, questo è, noi quello che possiamo dire è, non so, qualcuno vuole, qualcuno che non so, chi ti serve, un'azienda magari, un'azienda in cui puoi stare è uguale, qualsiasi cosa, basta che io possa entrare, tenere il camper dentro. In cambio gli do tutto quello che per la pulizia, la manutenzione, l'azienda, il piazzale e tutto quanto quello che mi cari amici cari amici, non lo so, in che zona? Sempre Milano? Qualsiasi zona, non c'ho pretese. C'ha il camper, non quindi si sposta, non c'ho pretese. Vabbè, Alessandro, abbiamo lanciato, non so, questo appello, se qualcuno ci vuole contattare, 100milan@radio24.it. Lancia questo appello. Alessandro vive in un camper dopo una vita un po', se ben capito, anche travagliata. Ha bisogno o si offre per dire: ho bisogno di una piazzola di sosta, come dire, dove non pago e dove posso star lì, fare dei lavoretti in cambio, manutenzione, pulizia in un'azienda, in un. fateci sapere, oh, se qualcuno vuole in qualche modo fare questo tipo di economia di scambio, eccoci qui. Allora, a proposito di vite, sì, travagliate, mi viene in mente un libro da consigliare, sempre per togliere il lavoro ad Alessandro Va Tedesco. Bene, sì, perché tra poco parliamo di un altro libro, però vai. Ah, vai. Sì. Va bene. Vite vere, comprese la mia, di Beppe Viola. Questo è un grande vite vere, libro. Grande Beppe Viola. Insomma, sì, grande, sì, Beppe Viola ha scritto alcuni libri e questo racconta appunto di vite particolari, travagliate, tipicamente anche milanesi, ma non solo. Vite vere, comprese la mia, di Beppe Viola. Invece noi tra poco avremo un ospite. Cioè, io vi dico solo un nome. Se io dico questo nome, Aristoteles, ti dice qualcosa? Aristoteles, sì, la Longobarda. Vabbè, sì, ho visto, capito, tutto, ma prima. Ma regge un po' il gioco, dai. No, non sono capace. Ricordate tutti, l'allenatore nel pallone, la Longobarda, Aristoteles, il brasiliano Aristoteles. In realtà non è brasiliano, è svizzero e ha scritto una biografia, la sua vita, che è una vita straordinaria di imprese, di cadute, di... Noi l'abbiamo conosciuto come Aristoteles, ma è una vita straordinaria che racconteremo con lui dopo il traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Uno, nessuno, 100 Milan. I love the colorful clothes you wear. Mancano 2 minuti e la partita si riapre. La Longobarda è in avanti, citata dalla sua folla e sospinta dall'azione incessante del suo asso brasiliano Aristoteles. Esce il portiere, la porta è vuota, tiro, rete. Ce lo ricordiamo tutti, un film che è diventato di culto, l'allenatore nel pallone, Lino Banfi, la bizzona, il 5-5-5, e c'era un protagonista che era il brasiliano, il giocatore, no, che fece vincere, che aveva la Saudade, ma fece vincere poi la squadra mantenendo la Longobarda in Serie A, Aristoteles. Erano i tempi di Socrates e quindi c'era Aristoteles, ma Aristoteles è qui con noi perché in realtà ha scritto un libro, la sua biografia è una biografia straordinaria di una vita tra alti e bassi, incredibile. Io, Aristoteles, il negro svizzero, perché bene sì, è svizzero, ha scritto per Biblioteca Edizioni la sua biografia, Urs Althaus, che salutiamo. Urs, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Pronto? Buongiorno e grazie Urs per essere qui. Ecco, Aristoteles, tutti la conoscono voi, così. Sì. Ma cos'è? È un marchio di cui va fiero? Perché io ho letto la sua biografia e dedicate solo poche pagine, qualche capitolo a questa vicenda di Aristoteles e di quel film. Come se lo ricorda lei? Sergio Martino, il regista, mi ha invitato da un casting e mi ha detto: il mio nuovo film è tutto di calcio e sono cercando un attore che lo so come giocare calcio, no? Mi ha detto: sì, sono trovato, sono io. E così lui ha offerto a me il parte di Aristoteles. Tutta l'Italia sa che si la ricorda così, ma in realtà Urs Althaus è attore, modello, imprenditore. Per esempio, lo sapevate che è stato il primo modello nero a finire sulla copertina di GQ, New York? Erano gli anni 70. Lei nel libro scrive: il primo negro su GQ. Come c'è finito su GQ in copertina? Primo nella storia. Sì, a questo tempo, no? Non sapevo il significato. Quando io arrivato al studio, il art director ricevuto viene con un piacere di champagne alle 9 alle mattina, ho detto, ma è presto. E lui ha detto, tu lo sai cosa noi facciamo oggi? Io ho detto, sì, noi fai il copertino. E lui ha detto, no, no, Urs, tu sei la prima ragazza di colore, uomo nero, che ha ricevuto questo honor. E per me è stata una cosa incredibile, no? Ma è stato troppo giovane per capire tutto la history di questa cosa. Sì. Che anno era? Anche perché, che anno era? Esatto, che anno era? Scusa? In che anno, che anno era? È stato 77, immagine. 77. 1977 a New York, e nel libro Urs Althaus racconta che erano gli anni in cui lei frequentava normalmente David Bowie, addirittura Yves Saint Laurent, cioè gente di questo calibro, no? Sì, sì, a questo tempo tutti abitato a New York, no? E anche dove io abitato questo caso, abitato Franz Beckenbauer, Lina Wertmüller, Pavarotti e tutti. Cioè, insomma, un tempo incredibile. Una vita, ma io per esempio come attore non ricordavo, ma forse Urs Althaus lo ricordate perché è stato anche uno dei non proprio il protagonista, ma uno degli attori di Il nome della rosa, con il film tratto dallo straordinario libro di Umberto Eco, quindi con Sean Connery, ma ha recitato con la regista Liliana Cavani, ha conosciuto Mastroianni, eppure tutti la conosciamo, sì, perché lei è Aristoteles, insomma, no? Sì, per questo film Aristoteles, mio primo parte grande, no? Ha aperto me tanti apporti. E certo, ha aperto tante dal porte. Dal punto di vista artistico, qual è il film invece che le ha dato più soddisfazione interpretare? Difficile. Io ho piaciuto molto un film con Alessandro Cappone, il regista italiano, Il commissario. Bello film, io ho pensato, per me è stato molto importante anche per la mia vita privata, no? Perché al libro sono scrive, io ho cresciuto senza papà, e a questo film io ho fatto il parte di un nigeriano, papà, che viene a Italia per trovare il suo figlio, e per questo film è per me molto importante, e anche con grandi attori, come Massimo D'Apporto. Certo, nella sua biografia Urs Althaus racconta proprio di una vita anche difficile, appunto, padre nigeriano, ma lei di fatto non lo ha mai conosciuto, è stato cresciuto dalla madre in Svizzera, perché è cittadino svizzero Urs Althaus, e anche una vita dove ha conosciuto molto pesantemente le droghe. Credo che sia il mondo della moda, no? che l'abbia portata a cadere poi in questo mondo delle droghe, o no? Sì, certo, perché a questo tempo tutti prendono droga, no? Ma è veramente un capitolo della mia vita molto triste, no? Un giorno, se è necessario per me, per decidere se voglio vivere o morire. Questo momento per me è stato molto triste, perché anche non volevo mamma a vedere me così. Ho pianto, e dopo hanno chiesto aiuto a Dio. Io ho scritto di quello esperienza molto male. È più facile per scrivere di parlare di questa cosa, no? Ma certo, un capitolo molto molto molto molto triste. Senta, ce l'ha fatta, sì. grazie a Dio, lei dice. Le chiedo questo riguardo al film, ancora l'allenatore nel pallone. Sai, caro Leonardo Manera, che le scene di calcio sono tutte vere, perché Urs ha giocato a calcio, era un po' il suo sogno da bambino, ha giocato in qualche squadra svizzera, a Zurigo, Basilea, e a un certo punto doveva tirare una punizione all'incrocio, e solo che in barriera, credo c'era nel film questo Ancelotti, c'erano quattro dei campioni del mondo in barriera, no? E Aristotele, Ancelotti, Brutto e tutti, e mio scena favorito, una scena di favorito, perché sì. Prima noi stato in girare in ritardo, il Sergio viene e detto: senti, noi facciamo il cinema, forse finta, no? Io ho detto: no, Sergio, non è possibile per me. Quando tutti i miei amici vedere me per fare finta, io voglio fare quello fisso e diretto. Quello vero, cioè voleva fare un calcio di punizione proprio all'incrocio, voleva tirarlo. E quante volte avete dovuto rifare quella scena? Vado al pubblico, il pallone va al pubblico. E dopo Angelotti è andato a me e ha detto: senti, Urs, tua tecnica non è male, provo per correre da sinistra, più o meno come parallela del pallone, no? Cioè fare una rincorsa diversa, una rincorsa parallela. Il secondo ha preso l'incrocio, cioè la seconda punizione ancora all'incrocio. L'unica punizione. Tutti quelli grandi giocatori del tempo, al muro. Quindi diciamolo, Urs, se qualcuno rivede l'allenatore nel pallone, quando Aristoteles mette una punizione all'incrocio dei pali, è tutto vero, non è una controfigura, è Urs Althaus. È una punizione perfetta all'incrocio. Ma Lino Banfi lo sente più? Lino Banfi? Non ancora. Tu lo sai come sempre la nostra professione, no? Tu lavori insieme e dopo girate e finite di girare un film, tu parti perché lui fa un altro progetto, io ritornato a New York dopo questo, ma anni dopo noi incontrato ancora insieme per girare un medico in famiglia. Ah, un medico in famiglia. Un medico in famiglia. Un medico in famiglia, sì. Insomma, tanti film. Ma guarda che se leggete la biografia trovate una filmografia, Leonardo, che è lunga chilometri, oltre alle esperienze, insomma, da modello. Le volevamo chiedere un'ultima cosa, Urs Althaus, la questione razzismo. Lei lo racconta, un paio di volte è stato anche aggredito, non da piccolo, ma più da adulto. C'è tutta la vicenda anche di George Floyd, lei è stato il primo nero sulla copertina di GQ. Che ne pensa del razzismo? L'ha incontrato nella sua vita? Tu lo sai, in America, no? Io penso al razzismo come un virus, tu non vedere questo, no? Adesso, dopo il morto di Mr. Floyd, R.I.P., no? Io penso il tempo è cambiare, perché adesso per la prima volta tutti i bianchi e neri, no? Andare a strada a protestare. Protestare per una migliore vita e più giustizia, dice? Giustizia, sì, e sì, anche giustizia. Pari opportunità per tutti, i neri e i bianchi, no? Io penso che questo per noi è molto... Noi viviamo un tempo molto importante, ma anche a Svizzera. Io scritto il libro, sono attaccato due volte di neonazisti. È stato per 2-3 settimane all'ospedale. Il razzismo è a tutto il mondo. E io penso che è il tempo per cambiare questo. Per cambiare, insomma, quindi per lottare. Urs Althaus, noi la ringraziamo, ripeto, leggete per Biblioteca Edizioni la biografia che trovate in libreria, si intitola Io Aristoteles, il negro svizzero, la biografia di Urs Althaus, una vita davvero tra alti e bassi, tante salite, tante cadute, ma è qui a raccontare, anche a dirci che la punizione che tirava l'ha tirata all'incrocio. Insomma, tutti lo conoscono come Aristoteles per i film fatti con Nino Banfi, l'allenatore del pallone. La ringraziamo molto Urs Althaus per essere stato qui con noi in diretta su Radio 24. Caro Leonardo, andiamo tutti a anch'io ho tirato molte punizioni all'incrocio quando sì, giocavo, però quando all'incrocio, giocavi, delle strade, sì, all'incrocio delle strade. Sì, sì. Ma anche Urs ha detto che le prime andavano all'incrocio delle strade praticamente. No? Alte, no, nel ti ricordo che io sono stato un ottimo centrocampista. Sì. Centrocampista. Questo lo dovremmo provare nella prima partita disponibile. Quando faremo una partita di Radio 24 contro un'altra squadra, vedrete le mie qualità di, così, di calciatore, vabbè, di mediano. Potremmo sfidare gli ascoltatori, fare una grande sfida, lanciare da qui. Non è una brutta idea. Mettiamo anche Deborah Rosciani terzino destro. Ma sai che non è una brutta idea? Non è una brutta idea, come fine stagione, a luglio, ringrazio. luglio, sì, alle 12 però sotto la canicola, sotto la canicola, no, campo a 11, va bene, dai. Deborah Rosciani, terzino destro o sinistro, adesso vediamo, intanto sentiamo la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Manera, aspetta qualche altro giorno a mangiare l'insalata, così l'accompagni con la carne. Al mio peggior nemico auguro di andare a cena da Manera. Ma adesso io vorrei, adesso siccome c'è questa cattiva idea che ci sia fatta di me, vorrei dire tutto quello che ho nel frigorifero, in modo che qualcuno sia anche invogliato a venire a cena da me. Allora, due zucchine e mezzo, quelle dovrebbero essere ancora buone, sono di... no, adesso che le guardo tanto dico bene, la redazione, chiamatemi Davide, il ristoratore di Roma, dai, due zucchine, vediamo un po' che ci fa Davide. Sono con un po' due passate, zucchine, vabbè, e... cioè, due, zucchine, con la dizione giusta. Zucchine passate. Poi ho del pesto al pistacchio, aperto ieri. Questo l'hai detto anche cinque giorni fa. Vabbè. Poi ho della passata di pomodoro, aperta circa una settimana fa. Di pomodoro. Altre due buste di insalata, quelle già pronte, scadute. Allora, da consumare entro il 9 giugno, una... era da consumare entro il 9 giugno e l'altra da consumare anche quella entro il 9 giugno. Vabbè, allora teniamo qua. Numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 nespole. 6 nespole. Della zuppa di farro andata male. L'insalata che ho citato prima. 4 uova buone comprate ieri e delle sottilissime di pollo. Vediamo quando va bene, allora adesso chiamiamo David, se riusciamo, dalla redazione, per capire, il nostro ristoratore di Via Trionfale a Roma. Nel frattempo, siccome c'è un momento di grande dramma radiofonico, ho detto non risponde un ascoltatore, non rispondo due ascoltatori, ho detto sentite, chiamare Mauro Meazza, che così ci rallegra ricordandoci due scadenze fiscali. Mauro, buongiorno, come stai? Tutto a posto? Buongiorno, tutto benissimo, grazie. Tu sei, bene, immagino, l'IMU io l'ho pagata. Ecco, l'IMU l'ho sarebbe pagata. Stata la mia prima domanda. Mi fa piacere, sì, vedo che ti sei allineato. Il 16, hai verificato prima sul sito del tuo comune di riferimento, perché magari ti avevano concesso una proroga. Sai che... dovevo verificare, mi è arrivata la cartella. Niente, vabbè, guarda, lasciamo stare, perché o tu ti metti a leggere religiosamente le pagine di norme e tributi, o se no non parliamo neanche. Oppure una cosa, allora tu martedì non puoi seguirlo perché sarai qui in onda a Radio 24, però sappi che martedì 23 dalle 9 alle 12 ti facciamo un telefisco speciale. Ah, obiettivo rilancio si chiama, è una cosa seria, adesso sembra che uno dica solo delle stupidaggini, invece no, trovi tutte le indicazioni per partecipare se vuoi sul sito del Sole 24 Ore naturalmente ci sono tutti i grandi nomi di Telefisco, quindi parliamo poi di finanziamenti alle imprese, ricapitalizzazione, ammortizzatori sociali e anche, caro Alino, so che ti stai leccando i baffi, il bonus del 110%. Guarda che è gettonatissimo e attesissimo. Senti, ma invece per la caldaia di Manera arrivano delle detrazioni fiscali. Sai che ha avuto un dramma degli della caldaia degli che si è rotto. Ma c'è quello incentivi abituale, c'è quello, a meno che lui ingordo. Però, perché io lo so, perché so che Manera è ingordo. Per chi la cambia, per chi la cambia, non per chi la ripara. No, lui, certo, lui è mica un conservatore. Ma anche perché quanti anni c'ha sta caldaia? Mi pare di capire che sia del secolo scorso, no, ancora un po'. No, è recente, ha solo 10 anni. Non, cioè, è, l'hai pagata ancora in lire, per capirci, Leonardo. Scusa la brutalità della domanda. No, l'ho pagata in euro nel 2010. Ah, vabbè. Risale al 2010. Ecco, però puoi anche adesso legittimamente cambiarla. Insomma, con il sontuoso contributo che ti dà Radio 24 per parlare, certo, in tutte le mattine con Alessandro, sì, Milan. Giustamente vieni compensato, però devi anche mettere tu qualcosa. Devo dire, dispiace umanamente che ci sia questa immagine così negativa di me, che in frigorifero ho solo cose scadute, che è una caldaia che risale ancora al 1900. Ho capito, che immagine. Adesso vado a dire, due zucchine marce, un pesto al pistacchio ce l'hai nominato 10 giorni fa, la passata di pomodoro di una settimana, due buste, sì, di insalata, una scadeva il 9 giugno, 6 nespole, non voglio sapere di che anno di raccolta, zuppa di farlo andata male. Posso dire anche un altro problema che ho, che magari qualcuno me lo, sì, può risolvere. Pure, io ho, siccome sì, mi piove dentro l'acqua dentro casa da un Velux e non so come risolvere il problema. Chi devo chiamare se mi piove dentro casa da un serramentista? Da un Velux? Ci sono dei serramentisti, Leonardo. Bravo, sì. Bravo. Trovi se cerchi, insomma, su internet, eccetera. Se vuoi, no, puoi chiedere. Ho trovato il rimedio per l'acqua che piove, Leonardo, dentro casa, se ho già me lo rimedio. Dicevi l'altro giorno, eravamo a bere io e Leonardo al Tempio d'Oro locale, a fianco c'è un negozio di serramenta, me lo dicevi, passavamo a fianco, sì, in via delle Leghe qui a Milano e io ho il rimedio migliore, ragazzi, ho il rimedio migliore del serramentista, l'elisir del dottor l'estate. Meazza. No, l'elisir. Allora fai così, Leonardo, abbi un attimo di serietà, solo 10 secondi, tu vieni lunedì dai Buca ad Alessandro Milan, ti colleghi invece con il telefisco speciale che ci sarà, trovi tutti i dettagli per partecipare. Capito, sul Meazza, sito del Sole 24 Ore. Ascoltatori, aspetta, perché così puoi chiedere per la tua caldaia e anche per il tuo Velux direttamente a Roberto Gualtieri. Guarda, perché sarà nostro ospite anche il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri. Lo chiedi direttamente a lui. Una domanda di Manera, scusa, si alza, scusi, mi sono ministro. Esatto. Ho un problema con la caldaia. Mi riprendete con una telecamera, però il ministro dell'economia, certo, come risponde. Scusi, ho un Velux Sì, sì, cosa, sì, cosa lui può potresti chiedere, Leonardo? Gli diamo la possibilità di porre entrambe le domande. Scusate tutti e due, ma è il 45esimo, posso dirlo? Lo dico, sì, io? È il 45esimo di che? Del traffico? Sì, certo. Attenzione, aspetta, è il momento, aspetta. È il grande ritorno di Mauro Meazza, nota come non ti stiamo disprezzando ultimamente, no, perché certo, siamo in smart working e quindi... Allora, è il momento di Mauro Meazza, vai, a te l'onore, Mauro, come ai bei tempi. Tutto ciò premesso, traffico! Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. 1, nessuno, 100 Milan. Vabbè. Siamo alla fine di Uno Nessuno Centomila, o meglio l'ultima parte di Uno Nessuno Centomila, quasi in chiusura anche di settimana, e allora c'è bisogno di respirare, stare bene, stare allegri, stare sereni. È per questo che noi abbiamo riconvocato il nostro psicologo preferito, il professor Jansen. Buongiorno. saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. È tanto tempo che non venivo più ospite nella vostra trasmissione, caro Alessandro, e forse non tutti ricordano che ho fondato il mio metodo psicologico, che è il metodo di stare bene. C'è molte persone che vanno al psicologo per anni senza mai avere risultati, perché parlano ma senza agire mai, oppure non hanno risultati perché i psicologi dove vanno le persone non sono all'altezza di risolvere i problemi. Ecco, allora voglio dire agli ascoltatori che il psicologo normale ti ascolta, oppure finge che ti ascolta, ma intanto pensa ai fatti suoi, pensa a bollette da pagare, pensa all'amante, poi dopo che tu ti sei sfogato ti fa pagare e tu sei contento. Ma allora invece che andare da psicologo tu fai prima a comprare un pupazzo di gomma e a dire a lui i tuoi problemi, che risparmi i soldi e in più hai la soddisfazione di non far arricchire il psicologo, perché il psicologo normale finge, se deve fingere tu metti il tuo pupazzo di gomma sul tuo divano, è la stessa cosa. Oppure ci sono, caro Alessandro, psicologi che entrano troppo in sintonia col paziente e non va bene lo stesso, perché se tu piangi e il psicologo piange e non serve a niente, poi tutti e due dovete andare insieme ad altro psicologo che ascolta o finge di ascoltare senza risolvere problemi di nessuno. Allora io dico che l'unico tipo di psicologo che va bene è quello che quando tu hai un problema ti dice subito come risolverlo. Pronto intervento psicologo, che passa dalle parole ai fatti. Subito, dalle parole ai fatti. Cioè. Tu hai un problema, vai una volta, esci e hai già la soluzione. Perciò questa mattina voglio dare qualche esempio di cosa fare quando ci sono problemi, e questa è consulenza gratuita che do a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Per esempio, problema: mia suocera interviene troppo spesso nelle discussioni in famiglia e questa cosa non mi fa stare bene. Allora, soluzione immediata: cerca di portarti a letto tua suocera, così lei quando ti vede come amante ha un sentimento diverso nei tuoi confronti. Cerca di fare sesso con tua suocera, anche se è donna anziana, molto anche, e vedrai che poco alla volta le discussioni diminuiscono. Problema: dopo tanti anni di matrimonio non vado più d'accordo con mia moglie o con mio marito e discuto sempre con lui o con lei. Soluzione al problema: cerca di portarti a letto tua suocera. Almeno con tua moglie. Almeno le suocere servono a qualcosa. Cerca di portarti a letto tua suocera, almeno con tua moglie hai un motivo serio per litigare. Sì, oppure, se hai problemi col tuo coniuge, se hai problemi di litigi col tuo compagno, compagna, coniuge, fai cose strane che sembri matto. Guarda la televisione mettendoti di schiena e poi commenti, dici: oh, bello questo programma, ma sei voltato di schiena. Mangia usando due coltelli invece del coltello con la forchetta, oppure parla con l'insalata, così il tuo partner ti crede. Ne conosco uno, sì. Così il tuo partner, la tua compagna ti crede matto e non sta a perdere tempo con una persona che sembra fuori di testa. Ma non è detto che se tu parli con l'insalata sei matto, può anche essere una tecnica. Problema: tuo figlio adolescente si lamenta di tutto e litiga tutti i giorni con i genitori. Succede a tanti genitori che hanno i figli adolescenti che si lamentano, litigano, anche forse no, hai esperienza, no? Anche tu di tanti. Ecco, soluzione del problema: quando tuo figlio è tranquillo e non sta creando problemi, vai da lui e gli dai un bello schiaffo sul copino, così poi lui ricomincia a litigare, tu però almeno ti sei preso una soddisfazione e questa cosa ti fa stare bene. Ultimo problema: sul lavoro non mi sento valutato per quello che valgo e questa cosa non mi fa stare bene, non vengo valorizzato. Soluzione: trovo un amico medico che firma dei certificati falsi e mi metto in malattia. Utilizzate questi metodi e vedrete che starete bene. Parole del professor Janssen. Vabbè, chissà, guarda, io voglio salutarlo perché chissà cosa ne pensa il professor Janssen, il nostro Anacleto. Ecco, certo che conclude la settimana con Anacleto. Vabbè. Anacleto! Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Su alla chiesina, come va? tutto bene, sono qui, io oggi vado a mangiare sempre nel giardino del mio amico Alberto Lucoli, con suo fratello che è pazzoide, sono andato a pigliare la Monteatini, mi è toccato firmare 5-6 fogli per portarlo via. Che si mangia? Che si mangia oggi? Un fiasco di vino a testa? No, bravo, quello sempre, l'ho preso prima, 10 minuti fa l'ho preso il vino, molto buono, sempre un burger che poi ti manderò sicuramente, però io te lo pago qua, te lo paghi là, te lo dico, amico mio. Hai già detto? Ancora, va bene. Ma te lo voglio insino ricordare, hai capito? Voi. A proposito di ricordare di pagare le multe, tutto a posto, pagato? Niente, guarda, sono qui, c'ho da andare a pagare la luce ora. Se mi porta soldi uno, sono del gatto, hai capito? Così va bene, che vuoi fare? Anacleto, dacci una massima per concludere questa settimana, dai, una massima della chiesina che ti dice qualche tuo amico di quelli... Ora mi piglia la sprovvista, che t'ha a dire? Si mangia meglio oltre il Mozambico. Oltre il Mozambico, e poi c'era un mio amico, si operò l'anno scorso, sai, alla Sapena. Sì. Allora non c'è l'operatore, è vero, è questo che gli ho mandato il messaggio anche a Lorenzo. A Lorenzo. E allora che gli disse? L'anestesista gli disse: sì, visto quando ti fanno l'epidurale, ti diano mettiti a gatto. E lui gli disse miau. Ciao Anacleto, a lunedì, ciao. Ormai è tardi. Comunque sì, quanta nostalgia. Uno, nessuno.